that's what the topic is. Topic of our Dhamma talk today is understanding physical pain. L'argomento del discorso di Dhamma di questa sera è il comprendere il dolore fisico. And certainly what we shall do is certainly we shall take a look first of all at certain different ways of seeing or viewing pains. Allora, innanzitutto vedremo i diversi modi per vedere o osservare i diversi tipi di dolore. And certainly then we shall continue to take a closer look at certainly the nature of physical pain. E poi daremo uno sguardo più profondo alla natura del dolore fisico. And certainly having done this, we shall explore different ways of dealing with pains. Poi esploreremo diversi modi per affrontare il dolore o i dolori. Now, a bold statement certainly could be the following, namely, we all like to meditate, but the pain part we don't like too much. Una frase un po' sfrontata, un po' spacciata potrebbe essere: a tutti noi piace meditare, ma non ci piace la parte del dolore. Nessuno di noi vuole provare dolore. Now, for the part about different ways of viewing pains, I have made good use of this book here, Sacred Pain, written by Ariel Gluckli, associate certain professor of theology at Georgetown University. Allora, per quanto riguarda i diversi modi di vedere il dolore, io ho fatto un buon uso di questo libro che si chiama Sacred Pain, quindi il dolore sacro, ed è scritto da Ariel Gluckli, che è un professore associato del Georgetown University, dell'università theology. Ah sì, il dipartimento di teologia dell'università di Georgetown. Yeah. Now, the subtitle is somewhat scary: hurting the body for the sake of the soul. E quindi il sottotitolo fa un po', come dire, un po' paura, nel senso che dice fare male al corpo per il bene dell'anima. And are we going to do this or not? Allora, faremo questo oppure no? No, better not. È meglio di no. So, when a pain comes up, how do you see it? Quando vi sorge un dolore, come lo vedete? Ah, so you want to push it away? Yes, as quickly as possible. Okay. And so, spingere via il più velocemente possibile. And so, then a follow-up question here, namely, do you see a pain as a friend or do you see a pain as an enemy? La domanda successiva è: ma tu vedi il dolore come un amico o come un nemico? Enemy. As an enemy. So this is one way of dealing with pains. Now, what do you think? Are there other or one way of seeing pains, relating to pains? Is there any other way to view a pain? Quindi questo è uno dei modi che abbiamo per relazionarci al dolore. Ma pensate che ce ne siano degli altri modi per vedere il dolore? Our body is talking with us. Ah, the body is talking with us. It's trying to teach us something. Quindi il corpo è come se attraverso il dolore il corpo ci stesse parlando, cioè ci sta dicendo qualcosa o ci sta insegnando qualcosa. Yes, okay, very good point. Sì, questo è un ottimo punto. Any other ways of viewing pains? Altri modi per vedere i dolori? Do these pains arise because some supreme being is causing them to arise, or do they arise of a natural accord? questi dolori sorgono perché c'è un essere supremo che causa il loro sorgere, oppure vengono su in maniera naturale o per conto proprio. Se non ci fosse il dolore, in alcuni casi si potrebbe anche incorrere in qualche pericolo mortale. And if there weren't any pain, sometimes you could even go, face great dangers, lethal dangers. You could even die of something. Because if there wasn't the pain to tell you that something was wrong. I see. So it's a pre-warning sign. Exactly. Come un preavvertimento di qualcosa che non va. Good. And Lynn, have you ever heard of people saying, well, we experience pains because maybe we've done something wrong in the past, so it's kind of a retribution? Avete mai sentito persone che ritengono che noi soffriamo di un dolore perché abbiamo fatto qualcosa di male nel passato, quindi è come se fosse una, come dire, una punizione? So some people see it this way. Alcune persone la vedono così. So now let us, let me share with you, what Ariel, just some of the main points, from Ariel Glücklich's book. So he distinguishes a number of different models for pains. The first one would be the juridical model, namely where pain is seen as a punishment. Allora, volevo condividere con voi alcuni punti da questo libro che ho citato prima, e lui individua diversi modelli entro cui si può definire, insomma, il dolore. E il primo è quello che lui chiama giudiziario o da giudice, e quindi il dolore è visto come una sorta di punizione. And so another way of putting it is that a pain is a debt or damages owed. Un altro modo per metterla è vedere il dolore come un debito da pagare o un danno che è stato fatto e quindi bisogna ripagare per questo danno. And so another way of saying this is a pain has been described as a punishment by some supreme being or by some impersonal mechanism such as karma. Un altro modo per dirlo è che questo dolore è come se fosse stato causato da un essere supremo oppure da qualche meccanismo automatico come per esempio il karma. Now, from a Buddhist point of view, at least some of the pains that we experience may be related to certain unwholesome deeds performed in the past, but not all, and it's not the only cause. Da un punto di vista buddista, alcuni dolori potrebbero essere causati da qualche azione non salutare fatta in passato, ma non tutti i dolori, can be contributed to this particular factor. Quindi non tutti i dolori. Avevo aggiunto qualcosa, ma adesso mi è sfuggito. No. The Venerable Sāryabhūtta, on occasion, shares a story in this regard, namely of a meditator, a police officer, who came and practiced under him at the Māsī Center. A questo riguardo, Venerabile Upandita riferisce di la storia di un meditante che era un poliziotto che era venuto a meditare nel suo centro. And so, after some time into days into the retreat, this police officer was reporting that he was experiencing a feeling as if drops of water kept falling onto his head, one drop after another. For at first it was okay, but it kept going on like this and certainly became a major problem to him. Allora, dopo qualche giorno di meditazione, questo poliziotto ha cominciato a riferire nei colloqui che aveva la sensazione che ci fosse come una goccia d'acqua che gli cadeva sulla testa, e inizialmente insomma non gli ha dato troppo fastidio, ma poi con l'andare del tempo è diventato sempre più forte fino a diventare insopportabile. It seems the man suffered quite a bit. E pare che l'uomo soffrisse piuttosto tanto. Then the Venerable Sadhu Pandita Vivansa inquired a little bit and suddenly found out that this police officer had tortured people during his work period, namely by, as a form of interrogation, placing, let's say, a bottle of water above the head of the person to be interrogated, and then drops of water would fall onto the head of the person to be interrogated. Allora il venerabile Pandita ha cominciato a fare delle domande a questo poliziotto e ha scoperto che nel passato lui aveva torturato dei prigionieri proprio con questo metodo, cioè aveva messo dell'acqua sulla testa e la faceva gocciolare un po' per volta. No. It sure seems that there was a connection between this very unpleasant sensation that the police officer was experiencing and what he had done to others. Quindi qui sembra molto evidente il collegamento tra questa esperienza molto dolorosa e spiacevole che il poliziotto stava sperimentando in meditazione e quello che lui stesso aveva fatto ad altri nel suo passato. Now, sometimes we may experience certain what might be called medical pains. So pains that are connected with the process of, let's say, undergoing some treatment, surgery, etc. A volte possiamo sperimentare del dolore che è legato a un problema medico. Per esempio, se stiamo seguendo una cura, oppure se abbiamo subito un intervento chirurgico. So, when we are on, we're suffering from some illness and we're on heavy, heavy medication, then the medication itself can cause a lot of pains and in the form of side effects. Quando siamo in meditazione, stiamo facendo un ritiro di meditazione, siamo in cura e stiamo prendendo dei farmaci, allora questi farmaci possono avere degli effetti anche sulla meditazione, possono esserci degli effetti secondari e quindi può esserci del dolore collegato a questo. Or during or after some intense surgery, also major pains might arise. O anche dopo un intervento chirurgico potrebbero sorgere dei dolori piuttosto forti. Now, then Ariel Glücklich speaks of the military model with regards to physical pain. E poi quest'autore parla di un altro modello che è quello militare, il modello militare riferito appunto al dolore. And so this is what our meditator mentioned earlier on. Most people who suffer pain regard it as an enemy or at the very least as an unwelcome guest. E questo è quello di cui aveva menzionato prima la meditante, e cioè che spesso noi guardiamo, consideriamo il dolore come un nemico o se non un nemico, almeno un ospite non gradito. And so, one way of seeing pain is to see it as an enemy or an invader of one's body. Allora, un modo di vederlo appunto o come un nemico o comunque un qualcosa che invade il proprio corpo. Now, pains and aches may also arise if we happen to be an athlete and certainly we're training to become an expert long jumper or whatever else. I dolori possono sorgere anche se siamo per esempio degli atleti e ci stiamo allenando per diventare dei campioni per esempio di salto in lungo o di altre specialità. Now, Plato and Aristotle use the word ascesis in this context, meaning training. Platone e Aristotele usano il termine ascesis a questo riguardo, che indica, che significa addestramento, allenamento o tirocinio. Ascesis. Ascesis. Yeah, well, it's Greek, no? È greco, la parola greca. Qualcuno conosce il greco? L'ascesi? Penso che sia ascesi. So, anyways, when training in a particular sports category, then we need to train ourselves in discipline and also physical control and endurance, and it is expected that we can handle those physical pains well. Quindi quando noi ci stiamo allenando per una disciplina sportiva, allora ci si aspetta da noi che appunto ci alleniamo nella sopportazione, diciamo, della fatica fisica. I can't remember the three things. Discipline, physical disciplina control, anche, e anche nel controllo del proprio fisico. And endurance. Sì, e questo spirito di sopportazione. Quindi queste sono le cose richieste ad un atleta perché possa allenarsi nella sua disciplina. Now, another way of viewing pains, as is recorded in the literature, is as magical, in the context of magic. Un altro modo per vedere il dolore è anche quello di vederlo come qualcosa di magico. And just like one has, just one like one applies fire to, let's say, some gold in order to melt the gold and also get rid of the impurities. Likewise, in order to purify the mind, the body needs to be exposed to certain pains. Quindi l'idea è paragonata un po' al fuoco che messo sotto l'oro lo purifica, lo toglie da tutte le imperfezioni. E così allo stesso modo la mente per purificarsi ha bisogno del dolore. And those people who are into this, they think that through exposing themselves to great pains they can reach higher levels of consciousness. E per le persone che credono in questa teoria, allora loro ritengono che sottoponendosi a queste forme di dolore loro possano ottenere o raggiungere delle forme più elevate di coscienza. Now, for those of you who have traveled in India and Nepal, you might have seen sadhus, religious ascetics in Hinduism who, at least some of them, train themselves by intentionally exposing themselves to heat. So they will go, they will sit very close to a fire thinking that this thing will purify them. Se siete stati in India o in Nepal avrete visto dei sadhu, cioè degli asceti induisti che si espongono volontariamente, intenzionalmente al calore, per esempio si siedono molto vicini al fuoco ritenendo che questo li potrà purificare. Then we have another category, namely models of shared pain, and so this is about a victim of pain may suffer the pain on behalf of others, while others are deeply affected by this pain. Allora, un altro modello è quello del dolore condiviso, e con questo si intende una persona che sente il dolore in virtù del fatto che ci sono altre persone che stanno patendo quello stesso dolore. So he is with people who are suffering. Yeah, and on behalf of me, the person is suffering on behalf of others. È come se soffrisse per gli altri, al posto degli altri. Now it's always good to have an example. And do you have one? Sempre bene fare degli esempi. Voi ne avete uno? Otherwise, it's just too. Can you think of a mother with a child for his child? Who? A mother for her child. Yes, that would be a good certain example. And you Jesus. Know that, pardon? Jesus. There you go. Jesus Christ. Indeed, who suffered, who endured crucifixion on behalf of others, to save the others. Quindi, il miglior esempio è proprio Gesù Cristo che ha sofferto sulla croce per al posto di altri, diciamo, per gli altri. And then we have the last category, namely psychotropic and ecstatic models of pain. L'ultimo modello è questo psicotropico, si potrà dire in italiano, è estatico. Lo traduco letteralmente. Maybe we'll understand the explanation. So, what this means is that people who take much interest in enduring pains, intentionally they submit themselves to pains. And then experience apparently sooner or later points of like anesthesia. They go beyond the pain, they no longer feel the pain. They no longer are the pain. Quindi ci sono persone che appunto volontariamente si sottopongono a esperienze dolorose un po' per trascenderle, cioè per andare oltre il dolore, per arrivare a uno stato quasi di anestesia. E quindi appunto andare oltre il dolore. Yeah, right. Now these are very briefly and in very simple terms the various models described by Ariel Glücklich, and so I think this might help one or the other person to reflect about one's own relationship or one's own way of viewing pains. Quindi questo molto brevemente sono i vari modelli così elencati in questo libro da Ariel Glücklich. E questo penso che possa essere d'aiuto un po' per riflettere sulla propria modalità di rapportarsi con il dolore e di considerare il dolore. Mm. Now, to relativize, put things into proper perspective. In Samyutta Nikaya, volume 4, section 230, the Buddha himself mentions other causes for pains, apart from karma. Per mettere tutto in prospettiva, nel Samyutta Nikaya, capitolo 4, versetto 230, il Buddha spiega delle altre cause per il dolore, oltre a quelle del karma. Such as pains or feelings originating from disorders of bile, phlegm and wind. Allora, per esempio, problemi fisici, quindi dolori che possono o disturbi che possono derivare da un cattivo funzionamento legato ai disturbi, un po' comunque legati alla bile, alla flemma and wind. E all'elemento aria. And then furthermore, imbalance of bodily humors. E anche uno squilibrio degli umori corporei, cioè dei liquidi. And then change of climate. Il cambiamento di clima. And then careless behavior. E anche un comportamento non attento, disattento. Yeah. And finally, trascurato. Yeah, and finally violence. E infine la violenza. And by careless behavior, let's say we take some food or some liquids that clearly are detrimental to our health. Ecco, quindi per questo comportamento appunto superficiale o di trascuratezza, diciamo, si intende l'assumere delle sostanze, del cibo o dei liquidi che sono sicuramente dannosi per la nostra salute. No. Apart from what Satna has been mentioned, namely certain pains arising because of past unwholesome deeds, and Satna then arising from disorders, etc., there are clearly also those pains and aches that arise and in the body which are related to the insight knowledge we happen to be in. Allora, oltre a questi dolori che derivano da azioni non salutari fatte in passato oppure da questi disturbi appena elencati, ci sono sicuramente anche dei dolori fisici che derivano o sono collegati strettamente con l'insight, cioè il livello di intuizione profonda nella quale il meditante si trova. Now, when it certainly comes to physical pains, there's a great variety that we might experience. Allora, per quanto riguarda parlando di dolori fisici, c'è un'enorme varietà di questi dolori che possiamo sperimentare. So, there could be a piercing pain, or it may be a cutting pain, or it may be burning pain. Quindi può essere un dolore, come dire, perforante, o un dolore tagliente o bruciante, or a tearing pain, o come uno strappo, or hardness pain, o un dolore che è legato alla durezza, or a throbbing pain, un dolore che pulsa. Any other pains? There's so many more. Ce ne sono molti, molti altri. Okay. So, in the course of your meditation practice, you will have come across one or the other pain. Sicuramente nel corso della vostra pratica avrete incontrato uno o un altro di questi dolori. Now, when we start facing and carefully observing a pain, sooner or later we will have to distinguish between two parts. Allora, quando cominciamo ad affrontare e osservare attentamente il dolore, dovremo sicuramente distinguere due parti. First part is the pain, the physical pain itself, and the second part is the feeling, the unpleasant feeling that is associated with it. La prima parte è il dolore fisico stesso, la seconda parte è la sensazione spiacevole, ovviamente, che lo accompagna. Now, this feeling, unpleasant feeling in Pali is known as dukkha vedana, is defined as having the characteristic of experiencing an undesirable tangible object. Allora, questa sensazione spiacevole, dukkha vedana in Pali, ha la caratteristica del fare esperienza di un oggetto tangibile non desiderabile. Yes. And the function of withering the associated states. E la sua funzione è quella di withering with associated mental states. Withering with. Withering and causing to weaken. Withering the associated mental states. E quindi di indebolire i stati mentali associati. Questa è la sua funzione. And its manifestation is as bodily affliction. La sua manifestazione è un'afflizione del corpo. Now, when we observe a pain over a longer period of time. Yeah, so this could certainly mean over several hours, or let's say in the course of several days, the same pain comes up over and over again. We may make an interesting discovery. Quando osserviamo il dolore per un periodo di tempo, in un arco di tempo abbastanza lungo, alcune ore, addirittura alcuni giorni, quando il dolore sorge ripetutamente, noi potremmo fare delle scoperte interessanti. So, the physical pain stays more or less the same, however, the feeling that goes along with it may change. Ovvero il dolore fisico rimane più o meno sempre uguale, ma la sensazione che lo accompagna potrebbe invece cambiare. So usually at first when a pain arises, it is accompanied by an unpleasant feeling. However, this unpleasant feeling may change into a neutral feeling, and they might turn into a pleasant feeling. Quindi quando il dolore prima si presenta, allora di solito è accompagnato con una sensazione spiacevole, ma questa sensazione spiacevole può trasformarsi in una sensazione neutra e potrebbe anche poi successivamente diventare una sensazione piacevole. And so, on the other hand, the feeling could remain the same, and so, the bodily pain itself may undergo changes. It might intensify, it might de-intensify. Oppure la sensazione potrebbe rimanere la stessa, e potrebbe essere il dolore a modificarsi invece, o in termini di intensità, potrebbe aumentare o diminuire di intensità. Now, these two aspects, with regard to pain and then corresponding or associated unpleasant feeling, these in Pali are known as kayika dukkha, which is the pain is your physical suffering, and the unpleasant feeling is the mental suffering. Allora, queste due parti, che sarebbero appunto il dolore fisico e la reazione al dolore fisico, la sensazione che accompagna, la sensazione spiacevole che accompagna il dolore fisico, questi in Pali si chiamano kayika dukkha and cetasika dukkha. E quindi kayika dukkha è la prima parte, quella che si riferisce al dolore fisico, e Cittasekaduka invece è la sensazione piacevole che accompagna questo dolore. Now, when we tackle a pain and observe it for a while, then, and by for a while I mean over several days, we might find that certain changes take place with regard to our identification to the pain. Quando affrontiamo il dolore in un periodo piuttosto lungo, anche diversi giorni, allora potremmo notare che cambia anche la nostra identificazione con il dolore. So, let us say an intense pain arises in the knee during the first few days of our retreat. Usually we will refer to this as my pain. It's giving me a hard time. Immaginiamo che sorga un dolore al ginocchio ai primi giorni di un ritiro. Di solito noi ci riferiamo a questo dolore come il mio dolore, o un dolore che mi sta causando dei problemi. Or if there is suddenly an intense pressure in the buttocks, then we will refer to this as my pressure. Se c'è una pressione molto forte nei glutei, noi di solito ci riferiremo a questa pressione dicendo la mia forte pressione nei glutei. Now, with a couple of days of intensive mindfulness practice, all of this may change. Con qualche giorno di pratica di consapevolezza, tutto questo potrebbe cambiare. Namely, when a meditator starts to discern or distinguish between physical and mental formations, then our meditator is likely also to disidentify himself or herself from pains and aches. Quando il meditante impara a distinguere tra i fenomeni fisici e quelli mentali, allora è facile che riesca anche a non identificarsi con i dolori e i disturbi fisici. And at that point, a meditator will refer to a pain no longer as my pain, but see it as just another sensation, just a pain. Allora è facile che a quel punto il meditante non riferirà più a questa esperienza come il mio dolore, ma semplicemente come dolore, come un altro oggetto da osservare. And so, when the pain, however, becomes more intense again, then the sense of self, the identification with the pain is back. Then it's again my pain. Ma quando il dolore poi aumenta, di nuovo sorge questa identificazione con il dolore, questo senso del sé, allora diventa di nuovo il mio dolore. And so, later on, much later on in the practice, when a meditator's mindfulness is really sharp, then one can even see how this sense of self comes, at times is gone and at times comes back in. E quando poi la consapevolezza raggiunge dei livelli così molto acuti, allora è persino possibile vedere come questo senso del sé si forma e come poi recede. So, when we experience a pain and the pain is accompanied by an unpleasant certain feeling, then this is likely to have certain consequences. And the normal consequence is that there is a latent tendency to irritation, to the arising of irritation or fear. Allora, quando sorge un dolore e la sensazione spiacevole che lo accompagna, questo molto spesso ha delle conseguenze, e le conseguenze sono che molto spesso sorge dell'irritazione o della paura. And as a result of this, we then will probably attempt to repress or avoid this pain that is accompanied by an unpleasant feeling. E come risultato noi cercheremo di reprimere questo dolore che è sorto insieme ad una sensazione spiacevole. Now, can you think of another common reaction towards pains? Riuscite a dirmi qual è un'altra reazione comune al dolore? You're sitting in meditation, your teacher tells you, be courageous when facing a pain. So then you sit there, you observe a pain with mindfulness, and the pain doesn't go away. Then what? Allora siete lì seduti in meditazione, il vostro insegnante vi ha detto di essere coraggiosi, di affrontare il dolore quando sorge, e quindi voi state facendo del vostro meglio, ma il dolore non va via, anzi aumenta, e allora cosa succede? Then lunch comes and you will have very little food or much food. Allora, quando arriva l'ora di pranzo, vi prenderete molto cibo o poco cibo? So, the rationale here is, after having to put up with so much physical pain, and it's really or truly no fun, well, then the mind suddenly seeks for some other gratification, and the gratification comes in the form of food. If I have to suffer that much, at least let me enjoy my ice cream or something. Allora, quando la logica dietro questa cosa è che quando uno deve sopportare un'esperienza così dolorosa o fastidiosa come quella del dolore, allora è normale normale che poi la mente cerchi gratificazione in qualcos'altro, e nella fattispecie la cerca nel cibo. Oggi, se devo proprio sopportare tutto questo, almeno posso poi rifarmi con un gelato o qualcosa di buono. Now, the mind has a number of different escape routes, and there's still another common one, very common, and you all keep using it over and over again without even realizing it. La mente ha delle altre vie di fuga, e voi sicuramente la conoscete e la utilizzate molto spesso senza forse neanche accorgervene. So what is this? Sleep. Oh, sleep, yes, okay, good. Il sonno. Future goal. What's your goal in the future? You think about something in the future. Okay, yeah, the mind goes into imagining and planning. Quindi la mente può fuggire verso il futuro, verso pianificare, immaginare. Yes. Still? Qualche altra cosa? The body does something. C'è il corpo che fa qualcosa. Yes, it moves. There you go. As simple as this. Sì, and effettivamente questa è la cosa più semplice. Il corpo si muove. So the Venerable Mahasiddhanta of Burma has expressed this very nicely. When we sit in meditation, and we're being attacked by some major pain, we will very soon change our sitting posture. E questo l'ha spiegato molto bene Mahasi Sayadaw di Birmania, quando diceva che quando ci sediamo nella posizione seduta, appunto, sperimentiamo un dolore, la prima cosa che ci viene da fare è quella di muoverci. Now, having moved once, the pain, however, it continues. Nonostante questo, dopo esserci spostati una volta, il dolore continua. And then we might decide to move for a second time. This still is not working. Then we might decide to get up, and the pain is still there. We might decide to walk, and the pain is still there. And finally, we might decide, okay, enough. Now it's time to take a nap. Allora uno poi si muove per una seconda volta e dice, beh, il dolore è ancora lì. Allora poi si alza e il dolore permane. Allora dice, beh, faccio una camminata, il dolore non se ne va. Alla fine dice, vabbè, ne ho avuto abbastanza, adesso vado a farmi un pisolino. And so these frequent changes of the sitting posture or of one's posture is a way of covering up the true nature of pains, namely the unsatisfactoriness. E quindi questi frequenti spostamenti del corpo sono un modo per coprire la vera natura del dolore, che è questa natura di insoddisfazione. Now, in the connection with unpleasant feelings, the Buddha has expressed the following, as is recorded in Samyutta Nikaya 36, section 3. When one experiences pain, if one does not understand unpleasant feeling, the tendency to aversion is present for one not seeing the escape from it. Ok, quindi questo è quello che dice il Buddha a proposito delle sensazioni spiacevoli, e lo dice nel Samyutta Nikaya 36, sezione 3. When one experiences pain, quindi quando uno fa questa esperienza del dolore, if one does not understand unpleasant feeling, se non comprende la sensazione spiacevole che lo accompagna, the tendency to aversion is present. Allora è presente la tendenza all'avversione. For one not seeing the escape from it. E una persona poiché uno non riesce a vedere un modo per sfuggire a questo dolore. For and one does not see the escape from the pain. Mm-hmm. Poiché uno non riesce a vedere la via d'uscita dal dolore. And the escape from pain that lies in being mindful of it, and in knowing its nature, and sooner or later the pain will disappear. E quindi la fuga dal dolore significa essere consapevole, conoscere bene la sua natura, e poi prima o poi il dolore se ne andrà. Or if one's practice is highly developed, then to take the pain as an object and then to see its nature, and then in the course of this one might even have an experience of Nibbana. Oppure se la pratica è molto sviluppata, allora uno può prendere un dolore come proprio oggetto di meditazione, conoscerne molto bene la natura, e questo potrebbe anche condurre a un'esperienza di Nibbana. No, even though we don't, usually we don't like pain satna too much, however, there is much we can learn from a pain. Anche se i dolori non ci piacciono, tuttavia ci sono molte cose che possiamo imparare da essi. Now, the very good news about pains is that they are impermanent. La buona notizia riguardo ai dolori è che sono impermanenti. Which means a pain could certainly get even worse, but certainly sooner or later it certainly will surely also decrease and disappear. E quindi questo significa che un dolore si potrebbe peggiorare, però con il tempo potrebbe anche diminuire e sparire. And do keep in mind that even the worst solid compact pain sooner or later will break up and disappear. Allora tenete presente che anche il dolore più solido, più compatto, con il tempo si frantuma e sparisce. Now, this may not necessarily happen within just one or two sittings. This may take sometimes several days, it might even take several weeks. Questo potrebbe non accadere in una o due sedute, potrebbe richiedere diversi giorni o addirittura diverse settimane. But if you're patient with, let's say, some chronic pain, sooner or later it will go. Ma se siete pazienti con un dolore cronico, prima o poi se ne andrà. Now, obviously when we experience a pain and the pain is accompanied by an unpleasant feeling, then universal characteristic of dukkha, of unsatisfactoriness, is very clear. Quando sperimentiamo un dolore e la sensazione spiacevole che lo accompagna, allora la caratteristica universale di dukkha è molto chiara. Now, the main definition for dukkha is actually seeing an object changing. So here, then seeing a pain changing again and again. La definizione di dukkha è il vedere un oggetto che cambia. Quindi, in questo contesto, è vedere un dolore che cambia ripetutamente. Now, when we experience some intense pain, what else can we learn from this pain? Quando facciamo esperienza di un dolore molto intenso, cos'altro possiamo imparare da questo dolore? Endurance, yes, gradually we become more skilled at tolerating it. Quindi la tolleranza, appunto la resistenza, diventiamo più abili a tollerare il dolore. What else? Cos'altro? Concentration, yes, is correct. Well, a pain is impermanent, a pain is unsatisfactory, and there you go, non-self. Okay. And so, quindi l'altra lezione da imparare è quella riguardo non sé. So, when we observe a pain for a while, then sooner or later will come the point when this identification with the pain falls away, and then we just see the sensation of a pain there, and that's all. It's just a process, and it's not happening to me, it's not me causing this pain to happen, but rather it's just another object that comes and goes. Quindi quando riusciamo a osservare il dolore per un periodo, un certo periodo di tempo, potrebbe arrivare il momento in cui noi non ci identifichiamo più con esso, cioè l'identificazione col dolore decade in un certo senso, quindi riusciamo a vedere questo dolore come una semplice sensazione. E quindi non è più il mio dolore. Yes, no longer my pain. My pain. It's just a process. Ah, ecco, poi lo si vede semplicemente come un processo che avviene. Now, when we observe a pain, the pain gets rather intense, we may understand some of the descriptions that the Buddha has given for formations, such as a sensation is like a thorn, or a sensation could be like a disease, etc., etc. Allora, quando riusciamo a stare per un certo tempo con il dolore, riusciamo a capire meglio determinate definizioni che il Buddha dava del dolore stesso. Com'è? Per le sensazioni. Ah sì, riusciamo a capire quello che il Buddha diceva rispetto alle formazioni. Sensazioni. Formation or sensation, did you say? What the Buddha, the way the Buddha described it? Formations. Describe different characteristics of formations. Come il Buddha descriveva diverse caratteristiche delle formazioni. Per esempio, le formazioni sono una malattia. Or a thorn. A thorn. Oppure come se fossero una spina. No, obviously we're not going to experience sensations like this all the time, but at least or on occasion it may happen like this. Ovviamente non sempre avremo esperienza delle sensazioni in questo modo, ma ogni tanto potrebbe accadere. Now, we have discussed to some extent different ways or different aspects that could be observed and understood about pains. Now we shall move on and discuss various ways of dealing with physical pains. Okay, qui abbiamo visto vari modi con cui si può descrivere il dolore. Adesso andiamo avanti parlando di modi con cui possiamo affrontare il dolore, gestire il dolore. Now, when we experience a pain, a physical pain, then we experience for sure the physical form of suffering. Quando sentiamo dolore, noi facciamo esperienza della forma fisica della sofferenza. When we deal with the pain in an inappropriate way, we might end up experiencing on top of the physical suffering also mental suffering. Se affrontiamo il dolore nel modo inappropriato, noi potremmo, oltre alla sofferenza fisica, in aggiunta alla sofferenza fisica, provare anche la sofferenza mentale. So what happens is a physical pain comes up, and suddenly while we're observing it, an unpleasant feeling arises, and then based on this, as we've seen, disliking arises in the mind. Allora, ipotizziamo che sorge un dolore e accompagnato a questo dolore, come abbiamo visto, c'è la sensazione spiacevole e di conseguenza sorge nella mente un non volere questo dolore, un'avversione verso il dolore. Yeah. And suddenly there may also arise a resistance, a mental resistance towards the pain. potrebbe sorgere anche una resistenza mentale a questo dolore. And so with this thing, we experience double suffering. E quindi in questo modo noi sperimentiamo una doppia sofferenza. And so that second form of suffering is not necessary. E quella seconda forma di sofferenza non è necessaria. And so, when dealing with the pain and so, with the resisting mind, then it's quite likely that the body also will tense up quite a bit. Quindi quando affrontiamo un dolore con questa mente piena di resistenza, allora è facile che anche il corpo sarà teso. No, in dealing with pain, it is important to possess two qualities, namely patience, kanti, and perseverance. Nell'affrontare il dolore sono necessarie due qualità, la pazienza o kanti, impali, e la perseveranza. And so, patience in the sense of forbearance or in the sense of endurance. E quindi la pazienza nel senso di resistere e di sopportare. And so, do keep in mind that the characteristic of patience is acceptance. So we accept a pain for what it is. We don't want it to be otherwise. E quindi la caratteristica della pazienza è l'accettazione. Quindi noi accettiamo il dolore per com'è e non vogliamo che sia diversamente. And so we then tolerate the pain, we are not opposed to it. E poi tolleriamo il dolore e non ci opponiamo ad esso. So when a pain arises, then we try to observe it with as much patience as possible and also with perseverance. Quando sorge un dolore cerchiamo di osservarlo con più pazienza possibile e anche con perseveranza. And so, these two qualities are given as the eighth way of sharpening the controlling faculties as given in the Visuddhi Magga. E queste due qualità sono indicate come l'ottavo modo per rendere più acuta la mente, o sharpening the mind. Sharpening the controlling faculties. Ah, scusate, per affilare, diciamo, sì, migliorare le facoltà di controllo, così come viene indicato nel Visuddhi Magga. Now, even though we are dealing with the pain with lots of patience and perseverance, it may happen that the pain will not disappear not right away, and then we might be at a loss. Può essere che anche osservando il dolore con pazienza e perseveranza il dolore permanga e non se ne vada, quindi a questo punto noi ci sentiamo un po' persi. Now for this kind of a situation the Venerable Nesaru Pandita recommends three strategies. First one is certainly your all out attack. The second one is guerrilla strategy, and certainly then the third one is a graceful surrender. I didn't understand the second, but anyway, you can I'll explain. Allora, quando la situazione è questa, il Venerabile Uppandita consiglia tre strategie. Allora, la prima strategia è l'attacco diretto al dolore. La seconda non l'ho capita. Guerrilla, defensive strategy. Ah, e quindi è una strategia difensiva. And the third one. Graceful surrender. La terza è una resa, vuol dire, pacifica, insomma, graziata. In pace. So, now these are three. Elegante. Elegante. So these are three. Dignitoso, forse. These are three strategies that will be explained. The first one is. Le tre strategie. The first one is a pain arises and your mind is still fresh and with full force you go right into the center of the pain. Allora, la prima strategia, sorge un dolore, la mente è ancora bella fresca, allora si entra nel dolore a piena forza. And suddenly, you try to observe it as best as you can and try to know its nature. Sì, cerca di osservare al proprio meglio e conoscerne la natura. Now, for how long can you do this? For 1 hour or 2 hours or 3 hours? Per quanto tempo riusciresti a farlo? Well, per un'ora, 2 ore, 3 ore? Obviously not for 3 hours. Ovviamente non lo si può fare per 3 ore. And so as you know already from your own meditation practice, sooner or later the mind will tire in the face of a strong pain. Come sapete dalla vostra stessa esperienza, la mente dopo un po' si diventa stanca di fronte a un dolore forte. And in this case, you apply the second strategy. In questo caso allora uno applica la seconda strategia. And the second strategy is your guerrilla strategy, which means you pull back, you withdraw from the pain for a while, but you still observe it at a distance. Quindi in questa seconda strategia uno si allontana dal dolore per un po' di tempo, però continua a osservarlo a distanza. And as you're observing the pain from a distance, you give your own mind an R&R break. So rest and recreation. Allora, osservando questo dolore a distanza, è come se voi deste alla vostra mente la possibilità di una pausa, di un piccolo intervallo per la ricreazione, diciamo, per il riposo e la ricreazione. Yeah. And then, when your mind has regained some strength, then you'll attack the pain again. Just like the guerrillas do, the insurgents would do in a civil war. Allora, quando poi la mente si è ripresa, ha riguadagnato un po' di energia, allora di nuovo torna all'attacco, proprio come i guerrilla e i sergenti fanno in una guerra civile. Now, this second strategy, now I see what guerrilla. I guerriglieri sono, adesso ho capito qual era la seconda strategia, quella dei guerriglieri. Yes, right. Okay, sorry. Spanish pronunciation, guerrilla. Guerrilla. Guerrilla. Not the gorillas, though. Yes, no. Non la strategia dei gorilla, però. So, any different ways. Sooner or later, that second strategy will also not work anymore, and your pain may still persist. And in which case, you then opt for the third strategy, which is a graceful surrender. So, you no longer look at the pain, and you just ignore it, and intentionally, you focus your attention on some other object, such as the rising and falling movement of the abdomen. Quindi può essere che dopo un po' anche questa seconda strategia non funzioni, allora optate per la terza, che è questa di una dignitosa ritirata, insomma, una resa dignitosa, e allora decidete di ignorare il dolore e focalizzare l'attenzione su un altro oggetto, che potrebbe essere per esempio l'alzarsi e l'abbassarsi dell'addome. And when you observe an object, a neutral object like the rising and falling movement of the abdomen, then your mind is no longer on the pain, and while observing the rising and falling, the pain quite naturally may lose some of its intensity and eventually disappear. Allora, quando state osservando un oggetto neutrale, come potrebbe essere l'alzarsi e l'abbassarsi dell'addome, allora il dolore a quel punto potrebbe perdere la sua intensità e prima o poi addirittura sparire. Now, when it comes to working with physical pains, our teacher in Burma keeps reminding the meditators of a very important aspect, namely, try not to get rid of a pain, but rather observe it to know its nature. And in doing so, in gaining some wisdom about the nature of the pain, sooner or later the pain will disappear by itself. Allora, uno dei consigli che il nostro maestro in Birmania, che il maestro in Birmania dà ai meditanti quando devono appunto lavorare con i dolori fisici è quello di non cercare di sbarazzarsi del dolore, ma piuttosto di osservarlo e di conoscerne bene la natura. Quando riescono a fare ciò, allora il dolore quasi automaticamente o gradualmente scomparirà da solo. No, also in the connection with the pains, as we have to deal with them again and again, we will gradually become more and more skilled at dealing with the pain. Inoltre, un'altra cosa da dire riguardo al dolore è che a forza di affrontare il dolore in questo modo, saremo sempre più abili nel gestire le varie situazioni. Just like soldiers in an army, if they've won a victory against the enemy army, they'll be ready to go and fight again. Proprio come soldati in battaglia, se vincono contro il nemico una prima volta, allora saranno incoraggiati a tornare a fare un'altra battaglia. Likewise for us as meditators, once we've managed to deal well with the pain and we've seen it until it finally disappeared, and then we will feel encouraged to observe the next pain that will come up. E allo stesso modo anche per noi meditanti, quando riusciamo a affrontare un dolore fino a vederne la natura e fino a vederlo poi scomparire, allora saremo incoraggiati a fare altrettanto quando il prossimo dolore sorgerà. Now, another aspect, and this is more of a reflection in the context of foot and pains, is certainly given in Burmese as Chandayayan Sinyekan, which means, you don't need to translate out in front of you. In order to gain happiness, we do have to put up with some degree of suffering. Questo è un detto birmano, una riflessione riguardo al dolore, e dice: per ottenere un certo livello di per ottenere la felicità dobbiamo sopportare un certo livello di sofferenza. So, just like a mason or a carpenter has to work on the roof of a building that is under construction and has to endure the heat of the sun or the cold of the wind or the rain or the snowfall, etc., in order to make a living, to gain some money. So too, we as meditators have to put up with a certain amount of physical pains and aches that come in the course of the practice. È così come un muratore che sta costruendo un tetto su una casa deve sopportare le avverse condizioni del tempo, quindi il caldo, la pioggia, il vento, la neve, eccetera, per poter guadagnarsi da vivere. Allo stesso modo noi meditanti dobbiamo sopportare un certo grado di sofferenza fisica. And it is nearby. Enduring a certain degree of physical pains and certain aches, that eventually we will experience some happiness. Ed è proprio riuscendo a resistere a questi dolori e questi disturbi fisici che noi riusciremo poi a raggiungere degli stati più piacevoli, insomma, felicità. Happiness, proprio un certo grado di felicità. Riusciremo a godere di un certo grado di felicità. Now, in life in general, when you encounter some difficulty, and suddenly, then what happens? Nella vita in generale, quando affrontate delle difficoltà, cosa succede? When you give in to the difficulty and you run away from it, know, then with this will you become a stronger person or a weaker person? Quando cedete di fronte a questa difficoltà e scappate da essa, allora diventerete una persona più forte o più debole? Obviously. What? No answer. Weaker. Weaker person. Likewise, you know, when in the meditation practice some difficulty comes along in the form of a physical pain, and suddenly we see it as a challenge and we work with it, the end result is going to be that we are going to become a stronger person. Allo stesso modo, quando in meditazione ci troviamo ad affrontare una situazione difficile, ma decidiamo appunto di affrontarla, di non sfuggire da essa, diventeremo una persona più forte. Now, seen in this way, a pain is not that bad anymore, and so the pain can be seen as a way of further strengthening our physical as well as certain mental abilities. Quindi, vista in questo modo, allora il dolore non è più, come dire, il nostro nemico, ma può essere un modo per rafforzare il nostro, sia il nostro fisico che la nostra mente. Now, very important, you know, when dealing with pains is, you know, to observe them or to tackle them, handle them in a non-reactive manner, not identifying, you know, with them and so, you know, not taking them personally. La cosa importante nell'affrontare i dolori è di non di affrontarli appunto in maniera non reattiva, e quindi non identificarsi con essi, non prendere i dolori su un piano personale. Now, when we have to deal with some physical pain or ache, and then the mental attitude that with which we handle this pain will make a big difference. Quindi l'atteggiamento mentale che avremo quando affrontiamo un dolore farà la differenza tra un atteggiamento mentale e un altro, questi fanno la differenza. And certainly, so qualities that we've discussed already earlier on should certainly be cherished, such as patience and acceptance is an aspect of this, as well as perseverance or determination, and then as the next one, detachment, which is equanimity. Ok, quindi le qualità da sviluppare a questo riguardo sono appunto la pazienza, la perseveranza, l'equanimità e il distacco. Now, when we deal with a pain, and earlier on we've seen a pain in the military model, namely as an enemy, then we can change the situation around by now with some better understanding by seeing a pain as a friend, because it helps us to become a stronger person physically as well as mentally, because it helps us to develop concentration, and certainly because it helps us to develop endurance and so on and so forth, and not to forget wisdom. Allora, quando noi affrontiamo il dolore secondo quel modello militare di cui abbiamo parlato prima, quindi come un nemico da affrontare, ecco, quando lo affrontiamo secondo quel modello lì, possiamo effettivamente cambiare atteggiamento e vedere il dolore non più come un nemico, ma come un amico, perché offre una serie di benefici, ci rinforza nel fisico e nella mente, aiuta a sviluppare la concentrazione, aiuta a sviluppare quelle qualità che abbiamo elencato prima, la pazienza, la perseveranza, eccetera, e non ultimo sviluppa anche la saggezza. And let's say we are overwhelmed by strong sleepiness, and then a pain arises. If we focus on the pain, our sleepiness will be gone within just a few seconds. Immaginiamo di essere completamente avvolti o presi da una forte sonnolenza. se dovesse sorgere un dolore e noi ci concentriamo su quel dolore, sicuramente la sonnolenza sparirà in un attimo. No, maybe just one more remark with regard to the relationship between pains and building concentration. Since a pain is usually a clear-cut object, it will help to unify the mind. In other words, concentration arises. Allora, due parole su come, sulla relazione tra il dolore e la concentrazione. Siccome il dolore è un oggetto molto chiaro da osservare, allora molto facilmente se ci focalizziamo su un dolore, questo ci aiuterà a unificare la mente. No, there are passages in the texts that describe the Buddha as dealing with pains in a perfect way, namely by being mindful of them and clearly comprehending and thus enduring them with an unperturbed mind. Ci sono vari passaggi nei testi in cui si descrive come il Buddha ha affrontato in maniera impeccabile il dolore, e cioè con consapevolezza e con chiara comprensione, con una forte resistenza al dolore, endurance, and unperturbed mind. E una mente imperturbabile. Now, let me conclude today's Satya Dhamma talk by wishing that may you gain much wisdom from observing whatever pains come up in your meditation practice. Io concluderò il discorso di questa sera augurandovi di ottenere molta saggezza osservando qualunque dolore sorga nella vostra meditazione. And may this in the end lead you to the ultimate escape from pain. E possa questo alla fine condurvi al massimo, all'ultima, diciamo, fuga dal dolore. And that's it.